Preghiera del profeta Muhammad. Allahumma, o Allah, ti chiedo di proteggermi da un sapere che non giova, da un cuore che non teme, da un io che non si sazia, da un invito che non ha risposta. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.